Pubblicata sulla rivista Contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Giambonino, una nuova poesia della poetessa Concetta Padula, dal titolo La mia vita. Un cantastorie raccoglie la mia vita, la prende sul far della sera quando ormai è finita. La raccoglie in un'anfora insieme alla canfora. Un profumo inebriante arriva alle mie narici in modo costante. Occorre imbalsamare la mia vita, fatta di sconfitte e di vittorie, giocate in un'unica partita. La mia storia è contenuta nel vaso di Pandora, insieme ad altri racconti esce e sfiora l'orecchio di tanta gente che oggi non è più presente. Con un sussulto si insinua nel corpo, concede espressione ad ogni volto. La mia vita è fatta di speranza e di preghiera, di chi guarda oltre il muro dell'indifferenza alla ricerca di un'arcana presenza.